edizione. Sono le 6 e 14 minuti, in breve una notizia che arriva dagli osservatori in Siria, gli osservatori delle Nazioni Unite. A quanto riferisce Alexander Feitoso, che è uno degli osservatori delle Nazioni Unite appunto, è un osservatore brasiliano, dice: a Homs la tregua si sta rispettando. Notizia arrivata questa nella notte. Prima edizione. Sono le 6, 16 minuti e 14, 15 secondi. Veniamo a dare un'occhiata a quelle che sono le prime pagine dei quotidiani italiani oggi in edicola. Da segnalare naturalmente che molte aperture sono dedicate alla terribile giornata di borsa di ieri, con le nuove paure europee che si ridestano, come abbiamo sentito, a causa non solo e non tanto del voto in Francia, del primo turno del voto in Francia, ma soprattutto per le dimissioni del primo ministro olandese dopo il fallimento dell'accordo sui tagli alla spesa all'interno della coalizione di governo, e quindi il fatto che se ne vada uno dei più preziosi alleati di Angela Merkel sulla linea del rigore. Aprono tutti così: le paure europee affossano le borse, il titolo del Corriere della Sera; effetto Francia giù le borse, il titolo della Repubblica; Europa fragile, mercati a picco, il titolo della Stampa; e ancora borse a picco, risale lo spread, è invece quello del Messaggero. Visto che i temi in prima pagina, i principali almeno, sono prevalentemente economici, partiamo dal Sole 24 Ore, il cui titolo è: l'Europa affossa le borse, Milano meno 3,8%, spread a 409, crollano Parigi, Francoforte e Wall Street, BTP, ossia il rendimento dei titoli di Stato, quindi non solo lo spread in questo caso, al 5,73%, scrive il Sole: la vittoria al primo turno di Hollande in Francia e la crisi olandese fanno esplodere le tensioni, questo è il titolo, un ampio con un grafico illustrato sull'andamento degli spread tra i titoli di vari paesi e i titoli tedeschi, dove si mostra una certa risalita anche per quelli francesi e olandesi, naturalmente su livelli molto bassi. Comunque 146 punti la Francia, 78 l'Olanda, a fronte dei 409 punti italiani toccati ieri. I due commenti di prima pagina sono dedicati agli aspetti politici, da una parte con Stefano Folli, di queste nuove vicende europee, un risultato che fa gioco alla politica. Si parla della vittoria di Hollande, almeno al primo turno, e poi si vedrà naturalmente. E poi c'è un editoriale invece di Carlo Bastasin, dedicato più alle vicende europee e di mercato. L'obbligo di dare certezze, il titolo, scrive tra le altre cose Bastasin, che servono maggiori certezze di medio-lungo termine, la prospettiva di Eurobonds, una roadmap per la mutualizzazione della politica fiscale, un metodo di decisione trasparente, ma lo stesso impegno di lungo termine spetta alla politica nazionale, a quella italiana in particolare, che deve definire il proprio operato non per ciò che ha fatto finora, ma per ciò che intende fare nei mesi e negli anni a venire. Si invoca dunque progettualità. C'è un dossier, tra l'altro, sul Sole 24 Ore di 10 pagine per capire quello che succede, si chiama Speciale Rischio Europa. Altri titoli che troviamo, altri temi che troviamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, c'è un meno tasse per crescere, la Banca Italia, aumenti siano temporanei, taglio deciso delle spese, la Corte dei Conti che dice troppe imposte nel DEF. E infine Grilli, la voce che abbiamo sentito poco fa del viceministro, nuova manovra, non la chiede neanche il Fondo Monetario Internazionale. C'è anche un servizio sugli obiettivi del governo, recuperare 4 miliardi dalla spending review contro i rincari dell'IVA. È interessante questa modifica che riguarda la riforma del lavoro e che riguarda, diciamo così, i lavoratori più qualificati, e la questione delle partite IVA. Delle partite IVA, come sapete, c'è un piano per ridurre gli abusi all'interno della riforma del mercato del lavoro. Ebbene, si dice che per le partite IVA saranno limitate alle mansioni qualificate, quindi la riforma del lavoro dovrebbe togliere quelli che sono gli abusi sulle partite IVA che riguardano le mansioni meno qualificate, cioè coloro che viaggiano a partita IVA ma sostanzialmente sono lavoratori dipendenti e vengono usati come lavoratori dipendenti, mentre invece dovrebbe escludere da questa lotta agli abusi le mansioni qualificate. C'è anche in prima pagina una sorta di commento a firma di Giampaolo Galli, direttore generale di Confindustria, sui rimborsi dell'IVA, perché c'è un ritardo nei rimborsi dei crediti fiscali da parte del governo. Galli scrive: subito una soluzione. Veniamo alla Repubblica, come si diceva, effetto Francia giù le borse, questo è il titolo principale, un commento in prima pagina a firma di Jean-Paul Fitoussi, economista francese, che si intitola La schiavitù dei mercati, e inizia dicendo che è troppo semplicistico dire che i mercati sono crollati a causa della semivittoria di Hollande. La settimana scorsa erano pure crollati per qualche altra ragione, è un bel po' di tempo che ci siamo abituati, scrive, a questa volatilità mozzafiato. Ma il titolo di centropagina che troviamo sostanzialmente, come dire, in maniera così forte e così decisa, come dire, solamente su Repubblica, Corriere della Sera e Messaggero, o meglio con la cifra, Finmeccanica per la Lega una tangente da 10 milioni, la vendita di elicotteri all'India. E nel frattempo su Belsito la finanza sequestra i diamanti, conducono in Svizzera le tracce di presunte tangenti versate da Finmeccanica, scrive la Repubblica. Le indagini sospettano di un versamento di 10 milioni di euro alla Lega tramite un'operazione appunto di vendita elicotteri all'India. Sequestri e perquisizioni sono stati eseguiti a Lugano a caccia di questa tangente. Poi a centropagina foto di Rubi al telefono da Berlusconi, 47.000 euro ogni settimana, e poi c'è un'inchiesta pubblicata da Repubblica, il nuovo business degli 007. Smascherare gli assenteisti. Presenta il quotidiano anche un'intervista al ministro Paola Severino, il ministro della giustizia. Il tema è anche qua la spending review. Abbiamo sentito ieri invece che cosa ha detto il ministro Cancellieri, che si dice pronta ad un taglio del 10% sul personale del Viminale, ossia il ministero dell'interno. Severino: risparmiamo su tutto, comprese le intercettazioni, dice. Il Corriere della Sera, apertura anche qua, come si diceva, sulle paure europee che affossano le borse. E poi, scusate, la corsa all'Eliseo, la grande foto a centropagina non è per Hollande, non è per Sarkozy, ma è per Marine Le Pen. E seppure nel riassunto si ricorda che Sarkozy riserva all'Europa le frasi più dure, la Francia vuole riprendere in mano il suo destino, e il commento però di Stefano Montefiori è: se i due rivali corteggiano Marine Le Pen. C'è anche sul Corriere della Sera la vicenda delle tracce di tangenti alla Lega, milioni versati alla Lega, si parla appunto di 10 milioni di euro, c'è da segnalare una Vicenda che interesserà molto i tifosi milanisti, perché il Corriere della Sera pubblica la notizia che il Milan ora cerca Pep Guardiola. A quanto pare il Milan vorrebbe come allenatore Pep Guardiola, l'allenatore del Barça. L'allenatore spagnolo attende, scrive il Corriere della Sera, da risolvere anche il dissidio con Ibrahimovic. C'è anche un titolo, come potrete ben immaginare, la vicenda degli ultra genuani, della quale vi abbiamo parlato poco fa all'interno del giornale radio. La stampa, il titolo è molto bello, a dire la verità, appunto: Europa fragile, mercati a picco. E un commento di prima pagina dell'economista Mario De Aglio: il tramonto dei parametri finanziari. La caduta generalizzata delle borse mondiali nella giornata di ieri, scrive, rappresenta un sintomo importante dei gravi pericoli di sfaldamento di quell'ampia e sofisticata costruzione che è la globalizzazione economica. Questo non tanto per l'entità quanto per i motivi della caduta, ossia per ciò che vi sta dietro. Così inizia il commento di Mario De Aglio. Due servizi che insomma sulle altre prime non troviamo. Allora, il primo è quello che riguarda la Fornero, che troviamo di meno, che riguarda il ministro del lavoro Elsa Fornero, ed è la visita nella fabbrica Alenia di Torino che ieri vi abbiamo raccontato all'interno dei nostri giornali radio. Il ministro si confronta all'Alenia con gli operai, applausi e fischi. Anche io, dice, potevo essere una baby pensionata. Altra vicenda che troviamo sulla stampa è quella degli i marittimi italiani della Jevoli, che sono stati rapiti dai pirati e liberati ieri, e c'è proprio il loro racconto: 4 mesi prigionieri nella Tortuga. Questo il racconto: non ci hanno maltrattato, e ha detto uno di loro, e stiamo bene, ha detto un altro di loro alla madre. Da segnalare oggi anche il commento di Massimo Gramellini alle vicende di Genova e del Genoa, naturalmente. Andiamo a chiudere con il Messaggero. Titolo è: borsa a picco, risale lo spread. Secondo Marco Fortis, che firma il commento di questa mattina, lo dice già nel titolo, il vero problema è Berlino. E c'è anche un commento di Luigi Manconi che riguarda invece la Francia: lo spettro di Marine Le Pen s'aggira in tutta Europa. Da segnalare l'intervista realizzata invece con Carlo Azeglio Ciampi, l'ex presidente della Repubblica, proprio sulle vicende francesi. Hollande attento, Sarkozy può ancora vincere. Altre due vicende: quella che riguarda l'omicidio di Via Poma, si ritorna su quelle vicende. L'ex fidanzato Busco che parla in aula: io innamorato di Simonetta, ma per il procuratore generale la condanna è da confermare. Altre due storie che troviamo legate in parte a Roma, che sono in realtà, la prima è nazionale e riguarda Napolitano. Il 25 aprile invita istituzioni e ANPI, l'associazione partigiani, insieme, perché come saprete c'è stata qualche polemica in merito al non invito dei politici al corteo per il 25 aprile. E il caso, la tomba del boss e della Magliana, vicenda che appunto della quale ci siamo occupati spesso, via dalla Basilica di Santa Pollinare. Prima edizione. Le 6:35 minuti e 5 secondi è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. È stata liberata ieri la nave Enrica Jevoli, sequestrata dai pirati al largo delle coste dell'Oman il 27 gennaio del 2011 e successivamente portata in Somalia. 18 i componenti dell'equipaggio, 6 italiani, 5 ucraini e 7 indiani. Ma quanti sono i nostri connazionali sequestrati? Ce ne parla Laura Bettini. Maria Sandra Mariani è a casa, come Paolo Bosusco una settimana fa, come Claudio Colangelo prima di lui, come i coniugi Cicala, solo per stare ai casi più recenti. Come invece non sono a casa Franco La Molinara, ucciso in Nigeria durante il blitz degli inglesi, che al contrario dovevano liberarlo. O Vittorio Arrigoni, un anno fa, rapito e ucciso a Gaza. O più indietro, Fabrizio Quattrocchi. E poi ci sono coloro che ancora sono prigionieri e ci sono le loro famiglie, intrappolate nello stesso incubo da mesi. Famiglie che ogni giorno sperano di ricevere telefonate come quella arrivata alla famiglia Mariani. Sandra, Sandra, come stai? Ora sto bene. Ma dove sei? Chi sono questi italiani rapiti? I volti di alcuni li conosciamo, complici i luoghi o i modi del sequestro. Di altri sappiamo ben poco. In realtà spesso non sappiamo nemmeno quanti sono. Il più sconosciuto, e quello da più tempo nelle mani dei rapitori, è senz'altro Bruno Pellizzari, sequestrato dai pirati somali nell'ottobre 2010 con la compagna sudafricana Deborah Kalitz. Viveva da anni in Sudafrica, uno skipper di professione, ed è stato sequestrato a largo della costa della Tanzania. Sempre dal dicembre scorso, ma in Pakistan, è in mano ai suoi sequestratori Giovanni Lo Porto, 38 anni, palermitano, cooperante per una ONG tedesca. Fu sequestrato con un collega olandese da parte, secondo la polizia pakistana, di fondamentalisti islamici. La più nota, infine, è Rossella Urru, 30 anni compiuti da poco, sarda, al lavoro come cooperante del CISP in Algeria. Rapita con altri due colleghi nell'ottobre scorso. All'inizio di marzo ne era stata annunciata la liberazione, ma la notizia fu purtroppo smentita nel giro di poche ore. Dopo, nuovamente il silenzio. Lo stesso silenzio che grava su tutte le altre storie, ma questo non significa che non si stia lavorando. È tutto per ora, il prossimo appuntamento con Italia in Controluce alle 13.30, dove approfondiremo ancora il tema della liberazione dell'Enrica Jevoli. A più tardi. Sono le 6:38 minuti e 24 secondi. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Dunque, il nostro primo tema di approfondimento è quello sul quale trovate le aperture di tutti i giornali oggi, ed è quello della giornata difficilissima che si è vissuta ieri sui mercati e soprattutto sulle aspettative che abbiamo per oggi. Valentina Furlanetto, buongiorno. Sì, buongiorno a te e agli ascoltatori. In effetti stavo proprio guardando gli indici delle borse in Asia per vedere quale sarà la tendenza anche dell'apertura oggi dei mercati in Europa, e se stiamo a guardare quello che sta accadendo sulle borse asiatiche non andrà molto bene. Tokyo con il Nikkei è in calo dello 0,92%, la peggiore è Seoul, meno 1,26%, Shanghai meno 0,66%, e ancora Tokyo con il Topix, perché prima avevo dato il Nikkei, sempre in calo dello 0,73%. Insomma, la giornata è in negativo per quanto riguarda i mercati in Asia. Ovviamente c'è grande attesa per l'apertura di oggi dei mercati in Europa dopo il lunedì nero per le borse del vecchio continente, che in una sola seduta, appunto, lo vedete dai giornali di oggi, hanno bruciato quasi 160 miliardi di euro. La peggiore tra l'altro è stata proprio Milano, con un calo del 3,82%. A ruota Francoforte meno 3,36%, e poi Parigi meno 2,83%, Londra meno 1,85%. Hanno pesato i risultati del primo turno presidenziale in Francia, la posizione di Hollande meno rigorista di Sarkozy preoccupa evidentemente i mercati, ma anche l'avanzata dell'estrema destra di Le Pen. E poi la crisi politica in Olanda con l'ipotesi di elezioni anticipate, anche questa spaventa i mercati. In Italia la paura si è concentrata anche sullo spread tra BTP e Bund, che è risalito a 410, poi ha chiuso a 409 con un rendimento del BTP al 5,73%. A poco poco sono servite le rassicurazioni del vice ministro dell'economia Vittorio Grilli, secondo cui la correzione dei conti italiani è adeguata, i mercati sono volatili e non ci sono stati segni di fiducia nei confronti dell'Italia. Anche Francia e Spagna però vedono gli spread ampliarsi rispettivamente verso i 150 e i 440 punti. La BCE intanto continua a rimanere ferma. A Piazza Affari hanno sofferto in particolare i finanziari, tra i peggiori Unicredit -6,42, Intesa San Paolo -6,26, ma anche Fiat Industrial ha ceduto il 7,11%. Per quanto riguarda Wall Street, che appunto ha chiuso dopo i mercati in Europa, anche il Dow Jones in calo -0,78%, e abbiamo visto questa mattina appunto in Asia ancora segni meno. Vedremo, Simone, come andrà la giornata oggi. E staremo a vedere. Grazie intanto alla nostra Valentina Furlanetto. E noi cambiamo argomento, o meglio, ma non tanto luogo, nel senso che abbiamo parlato delle borse asiatiche, è proprio in Asia che andiamo adesso. Saluto Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore, al seguito in queste ore del ministro degli esteri Giulio Terzi. Buongiorno Gerardo. Buongiorno a voi. Ti trovi in Indonesia e poi andrete in Birmania, questa seconda parte della visita, come dire, dal punto di vista più, se forse l'Indonesia è più interessante dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, no? Forse questa Birmania è particolarmente interessante, no? Sì, esattamente così, anche se si stanno aprendo importantissime prospettive economiche anche in Myanmar, dopo la sospensione, non revoca, sospensione delle sanzioni dell'Unione Europea per il processo di democratico avviato in quel paese con la vittoria del partito, la Lega Democratica della Aung San Suu Kyi. Il ministro degli esteri Terzi è proprio in questo momento a colloquio con il ministro del industria indonesiano Yadiat e firmeranno insieme con la Pirelli e la PT Astra Autoparts un accordo, una joint venture di 120 milioni di dollari per la costruzione alle porte di Giacarta di un nuovo stabilimento per la produzione di pneumatici da moto convenzionali, uno stabilimento che darà lavoro a 750 addetti ed è il primo della Pirelli nel paese e consentirà di rafforzare la capacità produttiva nel mondo dell'azienda, ma è a questo paese che stanno guardando molti. C'è anche qui al seguito del ministro il presidente dell'ENI Giuseppe Recchi, la Danieli di Pordenone nella siderurgia, ma anche settori tradizionali come quello dell'oreficeria, perché è un paese che ha una crescita del 7% annuo, è un paese del G20, la più grande democrazia islamica, e in questa parte del mondo sta per avere un ruolo sempre più importante. Gerardo, senti, invece il prosieguo della visita, diciamo così, questo appuntamento nell'ex Birmania, in Myanmar, come si prospetta? Beh, si prospetta, ovviamente ci saranno degli incontri nella capitale birmana, prima con le autorità, e poi giovedì mattina ci sarà l'incontro previsto con la leader della Lega Democratica Aung San Suu Kyi. Come si sa, ieri la Aung San Suu Kyi avrebbe dovuto giurare Parlamento sulla Costituzione vecchia, che però prevede delle formule di rispetto della Costituzione, una Costituzione nata nel 2008 dalla giunta militare, che prevede una riserva del 25% per i militari. Non si è trovato un accordo, Aung San Suu Kyi non vuole giurare su questa Costituzione, anche perché l'intenzione del nuovo partito è di modificare quella Costituzione in senso democratico. C'è quindi ancora una pressione da parte della comunità internazionale per accettare delle forme di compromesso. Probabilmente la Lega Democratica, invece che la parola salvaguardare la vecchia Costituzione, dirà soltanto rispettare, e in questo modo potranno forse arrivare a un compromesso. Però ecco, c'è da dire che l'Unione Europea ha solo sospeso le sanzioni, non le ha revocate, e quindi è pronta eventualmente a far sentire il suo peso. Certo che comunque il corso politico della nuova Birmania Birmania, della Myanmar, apre importanti prospettive anche al settore economico, e gli operatori economici italiani saranno anche al seguito del Ministro degli Esteri per verificare le potenzialità anche in questo campo. Grazie Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore, a seguito del Ministro Giulio Terzi, e sicuramente torneremo a sentirci con te nei prossimi giorni. Noi adesso sentiamo cosa succede su strade e autostrade. Prima edizione. Sono le 6:46 minuti e 15 secondi. Adesso parliamo di università, o meglio i titoli di studio, perché c'è una scadenza importante. Ne parliamo con Maria Piera Ceci. Il tutto era iniziato il 22 marzo, si conclude oggi. Parliamo della consultazione online voluta dal Ministero della Pubblica Istruzione sul valore legale della laurea. Il Premier Monti, lo ricorderete, aveva provato a metterci mano a gennaio. Poi lo stop di alcuni membri del governo e la decisione della consultazione online per tastare il polso del paese. Ne parliamo stamattina con il capo di gabinetto del MIUR, Luigi Fiorentino. Buongiorno Fiorentino, cominciamo dai numeri. Ma guardi, i numeri li avremo più tardi, i numeri definitivi, comunque già è un grande successo, oltre 20.000 persone che partecipano a una consultazione indetta da un'amministrazione pubblica su un tema peraltro non semplice come il valore legale del titolo di studio. È un successo. Ecco, a livello invece di risultato, quello che potremmo dire è che c'è una tendenza che in gran parte appunto ritiene che il valore legale del titolo di studio non debba essere abolito. Questo diciamo è un po' la tendenza che emerge. Il dettaglio lo vedremo nei prossimi giorni. Il dettaglio lo vedremo nei prossimi giorni, però su che ordine di quantità siamo? Siamo oltre il 70%, 70-80%, diciamo. Chi è che vi ha scritto? Tutte le categorie sociali. Vi ha stupito questo risultato o in qualche modo ve l'aspettavate? Guardi, io le dico subito, per una persona come me che diciamo guarda abbastanza ai metodi di partecipazione alla vita democratica, credo che il primo profilo di cui tutti noi ci dobbiamo compiacere è l'alta partecipazione. E poi il fatto che in Italia finalmente si inverte una tendenza, si introduce diciamo un metodo di partecipazione anche su questioni diciamo di policy, cioè il governo sente l'esigenza di ascoltare la voce dei cittadini. Naturalmente questo non è un referendum, e il governo diciamo potrà tenerne assolutamente conto per avere un po' il polso di quello che la gente chiede anche su argomenti come questo. Certamente, insomma, sarà uno degli elementi da tenere presente quando poi il governo dovrà prendere una decisione nel merito. Vi stupisce però che il 70% circa delle persone che hanno partecipato a questo sondaggio, comunque insomma, vi hanno scritto, sia ancora per conservare il valore del pezzo di carta? Insomma, la dice lunga anche sul nostro paese? Assolutamente no, il titolo di studio nel nostro paese ha sempre avuto un valore importante, un valore diciamo di mobilità sociale. Ora certo si tratta di andare oltre, di far capire alla gente appunto che il titolo di studio è un titolo a cui bisogna guardare anche in profondità diciamo il valore del titolo di studio, però che il titolo di studio del nostro paese avesse un significato anche simbolico, anche sociale, questo diciamo anche altre analisi lo hanno detto. Quindi non vi ha stupito, però insomma forse questo governo si aspettava, auspicava una risposta diversa del paese? No, io questo non lo dico, perché se fosse stato così il governo avrebbe già deciso. Grazie mille al capo di gabinetto Luigi Fiorentino del MIUR. La linea torna a te, Simone. Grazie a Maria Piera Ceci. Adesso ci sono solamente i saluti. I saluti a Peter Bescapè in regia, a Diego Rovelli in redazione. Un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia ci risentiamo tra poco con il giornale radio.